Donkey Kong, io cerco la mia principessa, cerco di salvarla soprattutto da se stessa. Lei non si fa trovare chiusa nella sua fortezza, continua ad aver paura ma ne di certezza. Tu vuoi la quiete ma ami la tempesta, che spazi via quella serenità fatta di carta pesta. Aspetta un momento ma memento mori, tutto passa col tempo, appassiscono anche i fiori ed un fiore spacca il cemento e viene fuori. Perché non pensa sia impossibile, fallo muori. E ringrazio questo cuore con l'Alzheimer, non ricorda il male, spengo il cervello, ci ho messo un timer. E clic, ho giù l'interruttore, non cercarmi, il dolore per me non ha nessun valore. Ecco perché non ho più un cazzo da dirti, nessuna voglia, no, né di vederti, no, né di sentirti. Quello che dovevo te l'ho detto eppure inciso, per inciso mai legato ad un filo già reciso. E dimmi ancora che non ci ho provato abbastanza, convinciti ancora, sì, che non sei tu la stronza. Come Donkey Kong io cerco la mia principessa, cerco di salvarla soprattutto da se stessa. E non si fa trovare chiusa nella sua fortezza, continua ad aver paura ma anche di certezza. Tanti ricordi mi legano a te ma sono più le corde usate troppe volte, ormai troppo corte, affogo delusioni. Della Nutella è un modo di dire, almeno se m'ammazza il colesterolo, sì, smetto di soffrire. Se uno schianto, un incidente di percorso, mi riprendo, tolgo il collare, la manetta al polso, ipnotizzato dal richiamo di un bifferaio. Io non ricopro il ruolo del bastian contrario, né tantomeno quello di un usuraio. Ma se t'ho dato amore devi darmi la vita, non il contrario. E visto che per te non conto un cazzo, puoi lasciarmi stare, prendi il tuo ragazzo al guinzaglio e portalo a fisciare. Perché nella vita o si amici o ci si ama, l'amicizia tra uomo e donna è una doppia lama. Quindi ti risolvo la maggior parte dei problemi, anche stavolta faccio un passo indietro come l'ho fatto ieri. Come Donkey Kong io cerco la mia principessa, cerco di salvarla soprattutto da se stessa. E non si fa trovare chiusa nella sua fortezza, continua ad aver paura ma anche di certezza. Chi dice donna dice danno, perché rompono il cazzo, non rimborsano e nemmeno te la danno. Chi vuole tradirmi si mettesse in fila, prima deve conquistarmi e fare tutta la trafila. Passare da zero a diamo in un secondo, da lupo solitario ad inquilino nel mio mondo. E mentre ti alleni su di me per i tuoi Hunger Games, yes, non sopravvivi se pensi di fottere NES. Uno stronzo, sì, per legittima difesa, la giuria t'ha condannata, sono io la parte lesa. Sorpresa non si direbbe se il tuo sguardo dice ancora, ancora, scusami Giuseppe, di sicuro troverai un altro amico. T'ho dato più del necessario e l'ho preso nel... No, non lo dico, non credo che non riuscirai a dormire. Se non ti rispondo più è per il mio bene, cerca di capire, capire. Come Donkey Kong io cerco la mia principessa, cerco di salvarla soprattutto da se stessa. Lei non si fa trovare chiusa nella sua fortezza, continua ad aver paura ma anche di certezza. Come Donkey Kong io cerco la mia principessa, cerco di salvarla soprattutto da se stessa. Lei non si fa trovare chiusa nella sua fortezza, continua ad aver paura ma anche di certezza.